nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.50 e tramonterà alle 16.36. Venerdì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Il mondo dell'agricoltura è per certo la sentinella avanzata dei cambiamenti climatici e già nella nostra regione si può notare una serie di variazioni nei cicli naturali e comportamento di piante e colture in campo. È questo il tema, oltremodo d'attualità, del pezzo di apertura seguito nella rubrica del bio dai risultati di uno studio che evidenzia come la frutta e gli ortaggi biologici siano più ricchi di quei microorganismi che concorrono in maniera determinante alla nostra salute. Prosegue la storia del vino con l'ennesimo editto dell'ennesimo imperatore romano che rivoluzionò il mondo della coltura della vite, mentre per lo spazio che dedichiamo alle piante abbiamo una scheda sul longevo e altrettanto velenoso Tasso. Di Sant'Antonio Abate e ai suoi stretti legami con il maiale si parla nella rubrica che ci analizza storie e prodotti legati al nobile suino, mentre altrettanta nobiltà la troviamo nella scheda dedicata alla rosa di Gorizia, il radicchio più ricercato e costoso al mondo. Comparazione dei prezzi e mercati agricoli di oggi con quelli di 5 anni fa nella rubrica dei mercati, cui seguono le previsioni del tempo per la settimana entrante con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana che inaugura una serie dedicata alla luna, alle credenze a lei legate e ai suoi influssi in agricoltura che ci accompagnerà per tutto l'anno. L'agricoltura probabilmente è il settore più esposto ai cambiamenti climatici, dove le mutazioni già si vedono, si intravedono e si temono. Ne parliamo con Stefano Micheletti, che è il direttore dell'Osservatorio Meteorologico regionale, che da tempo si sta occupando di questi temi. Innanzitutto, le temperature, cosa stanno creando, come stanno cambiando e quali pericoli per l'agricoltura stanno portando? Sì, le temperature sono già aumentate in maniera considerevole sul nostro territorio, forse anche più che nel resto del mondo, e questo porta ad una variazione del periodo vegetativo, ovviamente, per quanto riguarda tutte le colture e le piante. È ormai scontato che la temperatura continuerà ad aumentare, aumenterà di tanto quanto è già aumentata sinora nello scenario, possiamo dire, più ottimistico, cioè uno scenario che prevede una riduzione considerevole delle emissioni di gas climalteranti già dai prossimi anni, e invece continuerà ad aumentare in maniera sempre più crescente fino ad arrivare a 4-5 gradi di più rispetto alle condizioni preindustriali, nello scenario che prevede una continua crescita delle emissioni come è avvenuto finora. Non solo più caldo, ma soprattutto meno freddo. Cosa vuol dire? Che la stagione vegetativa si allunga sia anticipando in primavera che ritardando in autunno, e in particolare l'anticipo primaverile è quello che va considerato con maggiore attenzione, perché le piante appunto cominciano prima il germogliamento. Tenete presente che ad esempio sulla vite si è già anticipato di una decina di giorni nel mese di aprile, e questo vuol dire che le gelate primaverili tardive, che anche in un clima più caldo saranno comunque ancora possibili, provocano più danni, tant'è che la gelata dell'aprile 97 ha provocato danni tutto sommato contenuti, quella del 2017 molto più estesi e molto più ingenti. Passiamo all'acqua. In una situazione di, chiamiamolo, accordo di Parigi rispettato e quindi rapida diminuzione delle emissioni di gas climalteranti già dai prossimi anni, la quantità totale di precipitazioni sul nostro territorio e la loro distribuzione nel corso dell'anno da qui alla fine secolo potrebbero cambiare relativamente poco, di un 5-10%, il che implica conseguenze e impatti tutto sommato contenuti. Viceversa, nello scenario socio-economico attuale, che vede già ancora oggi una continua crescita delle emissioni, avremo una considerevole riduzione delle precipitazioni nel semestre estivo, accompagnata da un aumento quasi altrettanto significativo delle precipitazioni nel semestre invernale, e quindi una grossa differenza nella distribuzione delle precipitazioni un po' su tutto il nostro territorio, in particolare in montagna. Se non desertificazione della pianura, che sembra eccessivo, però dovremmo cambiare colture, come dal resto potremmo piantare la vite incarnia. Quello probabilmente sì, quindi desertificazione no, perché le piogge in inverno le avremo comunque, avremo un clima diverso, più simile a quello che oggi si trova nelle regioni meridionali italiane o nelle coste nordafricane, e sì, certamente cambieranno le colture, perché già in alcuni siti pilota vengono già piantate le viti anche nelle nostre montagne, e questo sarà sempre più diffuso, quindi un aumento delle altitudini, della quota in cui le colture che attualmente sono in pianura potranno prosperare, e viceversa una variazione delle colture primaverili a favore di quelle soprattutto con un minor fabbisogno idrico. Per la rubrica del bio, oggi Cristina Micheloni ci dà un punto di vista complementare sulla questione sempre più dibattuta della qualità agroalimentare. Questione qualità dal punto di vista dei microorganismi, sia quelli che vivono nell'ambiente che ci circonda, ma anche quelli che vivono dentro di noi, che nel loro piccolo hanno un impatto sulla nostra salute assolutamente non secondario. Parlare di microbioma e di microbiota intestinale è diventato una gran moda. Poi, quando si passa però all'agire, parlo di mangiare o di coltivare, le azioni sono ancora abbastanza limitate. Un recente seminario sull'innovazione in agricoltura biologica, e qui mi piace sottolineare il binomio innovazione e agricoltura biologica, quindi c'è molta innovazione nel biologico, ci dà l'occasione di collegare in qualche maniera però anche questa popolazione che vive dentro di noi, nel nostro intestino nello specifico, e provare a dare una nuova visione, una nuova lettura a cosa significa prodotto di qualità quando parliamo di ortofrutta, di prodotti vegetali biologici, ma anche di altri prodotti. C'è l'Università di Graz che ha fatto un lavoro molto interessante, pubblicato, trovate il link alla pagina Facebook della trasmissione, che è andata a guardare che microrganismi vivono sopra e dentro le mele biologiche, paragonandole a quelle del convenzionale. E in estrema sintesi, quello che balza agli occhi è l'estrema diversità, ovvero nei prodotti, nella mela biologica in questo caso, c'è una diversità di microrganismi assai più ampia rispetto al convenzionale. E questo viene poi sottolineato anche in altri prodotti. Quindi quello che balza agli occhi è che i prodotti biologici sopra, quindi a contatto col terreno, nell'ambiente, hanno una diversità maggiore che si ripercuote poi anche nel nostro intestino quando li mangiamo. Qualità e diversità dunque fuori e dentro, possiamo dire. La diversità ormai si è visto che è un sinonimo di qualità per quanto riguarda l'esterno, ovvero essere diversi significa essere più resilienti, quindi capaci di fare fronte ai cambiamenti e anche agli attacchi di patogeni o comunque eventi che ci mettono in difficoltà. Quando l'ambiente diventa qualcosa di interno a noi, dentro l'ambiente del nostro intestino, ha lo stesso effetto, quindi maggiore diversità dentro di noi significa maggior capacità di far fronte a qualcosa che ci potrebbe disturbare. Quindi mangiare la biodiversità in tutti i sensi è il miglior modo per preservarla da un lato, ma anche per fare del bene al pianeta e a noi stessi. La scorsa puntata abbiamo sentito con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine e ci conduce la rubrica del vino, come un editto dell'imperatore Domiziano avesse limitato la coltivazione della vite, non senza conseguenze. Ma le conseguenze sono da un lato positive per i territori, diciamo, intorno ad Aquileia, come abbiamo visto, in quanto il porto diventa un importantissimo porto vinario, specialmente per l'area danubiana, e anche perché era, come ancora oggi, una zona di facile passaggio attraverso le Alpi. Per cui per 200 anni Aquileia usufruisce di questo vantaggio, diciamo, di collocazione geografica. Intorno, diciamo, al 281 diventa imperatore, uno dei tanti imperatori, perché a quei tempi gli imperatori erano più di uno, ma un imperatore molto potente perché eletto dalle legioni, Probo. Questo imperatore, nato nei Balcani, si rende conto che era molto complicato da un punto di vista logistico rifornire di vino via terra i 500.000 legionari che contavano a quei tempi l'esercito romano. Per cui decide di cancellare l'editto di Domiziano, cioè quindi di facilitare nuovamente la coltivazione della vite al di là delle Alpi, però pensa di utilizzare giustamente delle varietà più consone a quegli ambienti, a quei territori, a quei climi. Quindi diffonde in tutta l'Europa continentale delle varietà di vite, chiamate Eunus, cioè nostre, balcaniche, che si diffondono dapprima e poi si incrociano con le varietà silvestris, diciamo, di tutta l'area europea, originando tutte le varietà che noi oggi conosciamo perfettamente. Possiamo dire che i romani non hanno mai bevuto Cabernet, o lo hanno bevuto tardivamente, Perché il Cabernet, ad esempio, è il risultato di questi nuovi incroci tra le viti danubiane e le viti praticamente dell'area, diciamo, di Bordeaux. Cosa molto interessante, aneddotica se vogliamo, la leggenda dice che per ringraziare Probo, i coltivatori della Borgogna gli regalano un appezzamento di terreno, che oggi esiste ancora, si chiama Romanée-Conti, 1,8 ettari di terra per produrre 400 casse di vino, che è tra i più costosi al mondo. Ho verificato, diciamo, in internet, siamo sulle 25.000 euro per bottiglia. Oggi Antonino Danelutto ci parla del Tasso, pianta longeva al punto di incarnare il concetto di immortalità. Una delle piante più longeve al mondo è senza dubbio il Tasso. Esistono diversi esemplari che superano abbondantemente i 3.000 anni d'età. Nella nostra regione merita di essere citato il Tasso di Villa Manin. È alto 11 metri, alla base ha una circonferenza di 4 metri, ha circa 200 anni ed è tutelato da legge regionale. Il Tasso, nome scientifico Taxus baccata, in friulano tac o tas, è un albero dalla chioma diffusa. È alto mediamente 10-15 metri ed è privo di resina. Le sue foglie aghiformi e sempreverdi si presentano su due file opposte. Sono lineari, appiattite, lucide, di colore verde scuro di sopra, più pallide di sotto. I fiori compaiono in aprile-maggio. I maschili, giallastri, raccolti in brevi spighe, si formano su una pianta diversa da quella su cui si trovano i femminili, solitari all'ascella delle foglie. L'impollinazione è anemofila, ossia avviene ad opera del vento. Il frutto, detto arillo, rosso a maturità, è simile ad una bacca la cui polpa carnosa da sapore dolciastro è mangereccia, mentre il seme è tossico. Nella nostra regione il Tasso cresce spontaneamente nei boschi montani umidi e freschi, specialmente nelle faggete, su suolo preferibilmente calcareo. Coltivato è presente nei parchi, nei giardini e soprattutto lungo i viali ombreggiati che conducono ai cimiteri. Per questo, e non solo per la sua elevata tossicità, è detto albero della morte. Ma curiosamente, per il suo fogliame sempreverde e per la sua longevità, è assurto anche a simbolo dell'immortalità. È a lento crescimento e sopporta bene le potature più strane, per questo è una delle piante più impiegate nell'arte topiaria per ornare ville e giardini. Il suo legno, particolarmente duro ed elastico, veniva usato soprattutto per fare archi. Oggi è impiegato in ebanisteria e per lavori al tornio. È anche ricercato per supporti di trofei di caccia. La tossicità della pianta, nota fin dall'antichità, è dovuta alla presenza di oltre un centinaio di sostanze, di cui la più importante è la taxina o tassina, che viene subito assorbita nell'intestino e può provocare la morte per arresto cardiorespiratorio. Invece al taxolo, ora ottenuto per emisintesi da un precursore presente nelle foglie, è stata riconosciuta un'azione antitumorale notevolmente efficace in diverse forme di cancro, specialmente dell'ovaio e della mammella. Un tempo le foglie venivano impiegate soprattutto come abortive, assai pericolose perché già 100 grammi dell'infuso l'1% erano tossici non solo per il feto ma anche per la madre. Pure l'uso dello sciroppo preparato con la polpa dei frutti, ritenuto utile nelle affezioni bronchiali, è stato abbandonato. Oltre a quello di Sant'Andrea, Sant'Andrea il Purcit sull'ebreo, un altro santo che lega il suo nome al maiale è Sant'Antonio Abate. Ci dice tutto Adriano De Fabbro per la rubrica che dedichiamo a questo nobile animale. Il 17 gennaio è il giorno di Sant'Antonio Abate. Per l'occasione in tutta Italia si rinnova in mille varianti una delle più sentite tradizioni popolari, quella legata alla venerazione del monaco alessandrino, protettore dei norcini, dei macellai e degli animali. Ancora giovanissimo scelse la via ascetica della solitudine. Per brevi periodi si recò ad Alessandria per incontrare e istruire un numero notevole di discepoli. Nel deserto, dice la tradizione, Antonio sostenne memorabili battaglie contro i demoni tentatori. Per opporre loro resistenza il salto si flagellava, si ustionava e si rotolava nei rovi. L'iconografia del maiale a cui viene spesso associato potrebbe nascere anche da questo fatto. Nelle allegorie del passato, infatti, il diavolo veniva incarnato nel porco, simbolo di impurità, e l'associazione popolare per cui il santo trascina un maialino, potenza diabolica dominata, finì probabilmente per farlo identificare anche come il protettore degli animali presente in formato gigante in ogni stalla da tutelare. Di simbolo in simbolo, la ricorrenza del 17 gennaio divenne l'occasione per impartire alle bestie di ogni specie sul sagrato delle chiese una solenne benedizione per invocare prosperità e armonia tra uomini e animali. Le sue reliquie furono traslate in Francia nel bel mezzo dell'infuriare di una grave epidemia di herpes zoster, detto appunto fuoco di Sant'Antonio. Per tutto il Medioevo al santo venne attribuita la virtù di curare la grave infezione cutanea grazie al potere dimostrato in vita nel contrastare il fuoco infernale. Per curare l'herpes, le piaghe e le irritazioni venivano spalmate con grasso di maiale che, riducendo la possibilità di contatto con l'aria delle zone colpite, dava agli ammalati un qualche sollievo temporaneo. Forse per questo, o anche per far quadrare i conti dell'ospedale, i frati iniziarono ad allevare maiali che venivano lasciati liberi di vagabondare per le strade, alimentati dalla carità pubblica. Dalla Francia, l'usanza del purcì di Sant'Antoni si è diffusa in tutti i luoghi in cui i confratelli dell'eremita edificavano un ospedale. Il culto di Sant'Antoni è ancora assai radicato in Friuli e in Italia, dove ci sono 62 località che portano il suo nome, e al Vegliardo sono dedicate anche decine di chiese di feste paesane. Da noi, quella più conosciuta è probabilmente quella dedicata ai Norcini, che si celebrerà tra pochi giorni a Fagagna. La rosa di Gorizia, il radicchio più costoso al mondo tra estetica, orticoltura e cucina, in questo contributo di Roberto Zotar. Bella e romantica come il profumato fiore, ma decisamente più saporita, la rosa di Gorizia è una delle eccellenze culinarie di questo periodo, annoverata tra i PAT, prodotti alimentari tradizionali della nostra regione, e tra i presidi slow food. L'estetica basterebbe da sola, ma quando il gusto incontra la sua delicata dolcezza e croccantezza, si capisce appieno il suo valore e si cambia per sempre la percezione sui radicchi invernali veneto solitamente amari. È una coltivazione limitata solo alle campagne di Gorizia, i cui segreti vengono gelosamente custoditi e tramandati da poche famiglie produttrici. Questo radicchio, che è sostanzialmente una cicoria, un ecotipo di Cicorium intibus, varietà sativa, deve il nome alla forma del cespo a bocciolo di rosa, caratterizzato da un colore rosso intenso. La rosa ha anche un fratello più raro e più dolce, il radicchio canarino, che ha le foglie giallo chiaro ed assomiglia ad un uccellino arruffato. La rosa, che esprime un'antica sapienza contadina, non ha origini certe. Probabilmente i primi semi furono portati a Gorizia dal Veneto nell'Ottocento e l'ortaggio si è adattato alle condizioni e alle esigenze locali. La prima citazione di questo radicchio risale al 1873 negli scritti del barone Carl von Czernik von Czernhausen, funzionario boemo, lo stesso che battezzò Gorizia la Nizza austriaca per il suo clima mite. Ma come si ottiene questo ortaggio, che è il radicchio più caro al mondo? La tecnica culturale rientra tra le mode di metà Ottocento di forzatura dei radicchi introdotti nel Trevigiano dal vivaista belga Van den Borre. Dopo le prime gelate in campo, le piante raccolte legate a mazzi sono messe al buio a 12 gradi per 15 giorni su un letto di torba, mentre nel passato si accatastavano sul letame delle stalle che con il suo calore di fermentazione le preservava dai danni del freddo. Nel tepore umido la pianta riprende a vegetare, il cuore cresce, si colora, diventa croccante e acquisisce un sapore dolce. Al momento della vendita si tolgono le foglie esterne, con uno scarto che dell'ordine l'80% e si lavano i cespi. In cucina, a mio avviso, la rosa di Gorizia non va assolutamente cotta. Il radicchio va assaporato crudo e accompagnato da patate e fagioli lessati, uova sode a spicchi oppure solo condito con olio d'oliva, aceto e sale. Anche la piccola radice tagliata sottile è ottima da mangiare. Splendido anche assaggiato la friulana, tagliato in 4/4 e condito con gli sfricis di maiale tostati in padella e sfumate con aceto. Si può servire ridotto a julienne con appena un filo d'extravergine del fior di sale appoggiato su un filetto di branzino cotto al vapore. Un sogno. Buon appetito. E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli comparati a quelli di 5 anni fa. In questa prima domenica del 2020, oltre ad augurare a tutti buon anno, concludiamo l'andamento di alcuni prodotti agricoli confrontando i prezzi degli ultimi 5 anni. Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, i cavoli, l'insalata gentile, i pomodori, le patate, le mele golden e le arance, dal 2015 ad oggi sono aumentati di prezzo da 15 a 40 centesimi il chilo. Nel comparto ittico, gli acquisti delle famiglie si sono intensificati e i prezzi nel quinquennio non hanno subito grandi variazioni. I branzini sono leggermente diminuiti. Le orate, le sogliole e le passere nei 5 anni sono rimasti in equilibrio. I calamari e i rombi hanno guadagnato terreno. Un quadro positivo del mercato nel settore avicunicolo. Molte richieste, le oche dal 2015 ad oggi sono aumentate di circa 80 centesimi il chilo. Positivo anche il mercato dei tacchini, faraone e anatre. Hanno ripreso quota pure i conigli con quotazioni che superano il 15%, mentre le uova sono incrementate di pochi spiccioli. Per quanto riguarda la sezione dei foraggi, i prezzi non hanno registrato variazioni sostanziali. Si è avuta una leggera discesa nelle quotazioni della paglia di cereali pressata e aumenti di circa 40 centesimi per l'erba medica e il fieno mangengo di pianura. Analizzando l'andamento dei prezzi agricoli in questo quinquennio, si è avuto un lieve calo fino al 2016. Gli anni successivi hanno dimostrato un andamento crescente, anche se concimi, mangimi, lubrificanti e servizi intermedi hanno pesato oltre il 36% sul paniere. E con il previsore dell'ARPA, Arturo Puccillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Siamo arrivati all'anno nuovo 2020 e come di consueto facciamo memoria di ciò che l'anno appena trascorso ci ha riservato. La caratteristica principale è stata il caldo. 10 mesi su 12 sono risultati sopra la media, con alcuni record infranti. A febbraio la temperatura ha raggiunto e superato i 22 gradi a fondovalle, il che non era mai successo, mentre in quota, 1500 metri, si hanno in media 4 gradi in più della norma. A giugno la temperatura media è stata di ben 4,5 gradi sopra la norma e le massime estive sono state raggiunte proprio in questo mese, con 37 gradi in pianura. L'eccezione è stata il mese di maggio e se ne ricorda soprattutto chi vive in montagna, per nevicate e gelate tardive. Sul versante piogge registriamo un anno un po' sopra la media, specie in Carnia, più 40%, principalmente per i mesi di maggio e novembre. Quest'ultimo merita una nota a parte, visti i valori di piogge che hanno caratterizzato alcune località. Tolmezzo, ad esempio, ha superato i 1200 mm cumulati mensili, 4 volte la norma. Il tutto a causa di frequenti situazioni sciroccali su un mare adriatico surriscaldato, in media 1,2 gradi oltre la sua temperatura normale, il che ha determinato anche frequenti alte maree eccezionali, ripetute a cadenza quasi quotidiana, su tutti i 181 cm di grado la sera del 12 novembre. Dicembre, dal canto suo, ha avuto 2 volti. Uno in media termica, all'inizio, con precipitazioni nevose anche a bassa quota. La neve ha raggiunto il Carso il giorno 12 e ha imbiancato tutta la zona montana anche a fondovalle il 13. Un altro, molto sopra la media, dopo la metà del mese, con atmosfere umide autunnali. Tra il 19 e il 22, 3 fronti atlantici hanno portato anche precipitazioni intense, scirocco forte e neve a quote relativamente elevate. Dopo Natale l'atmosfera ha assunto la connotazione tipicamente invernale della stabilità anticiclonica e le temperature sono tornate ad essere più rigide nella media del periodo. Rimane un mare molto caldo, con temperature mai raggiunte prima il 31 dicembre, oltre 13 gradi. Venendo alle previsioni, la settimana non offrirà particolari variazioni. Rimarrà una configurazione anticiclonica con correnti nord-occidentali in quota, associate al passaggio di qualche modesto fronte freddo, capace di portare a temporanei cali termici, mentre l'inversione manterrà più stabili le temperature nei bassi strati. Per tutta la settimana non sono previste precipitazioni, le temperature oscilleranno tra valori da gelata di notte e 8-12 gradi di giorno in pianura. I venti saranno deboli, prevalentemente orientali, specie mercoledì, e poi nel fine settimana. Col passare dei giorni le temperature gradualmente aumenteranno in quota, salvo una battuta d'arresto mercoledì, determinando un rialzo dello zero termico verso i 3000 metri da giovedì, e quindi marcate inversioni termiche nei bassi strati. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano, inaugurando una sezione dedicata alla luna, alle credenze, ai suoi influssi in agricoltura e non solo, che ci accompagnerà per tutto l'anno. Nadal cu la luna crescint, tante robe pe buine int, ovvero Natale con la luna crescente, tanta roba per la buona gente, che fa il paio con Nadal in luna crescint, anade buine Natale in luna crescente, annata buona. Lo scorso Natale c'era però luna calante. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?